Abba, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo a questo punto l'anno prossimo. Assolutamente sì, se posso una chiesa aggiungere, finale, certo. lei parlava di abbronzatura, no? Mantenimento di abbronzatura. Ci dica, direi che ha bisogno di qualche consiglio dalla nostra dermatologa dopo. No, io magari, magari prendo il aeroplano e seguire il sole può essere sicuramente una soluzione per il mantenimento dell'abbronzatura. Buon lavoro. Sembrava le tragiche cose, no, che succedono specialmente a noi donne sulle gambe quando poi infiliamo le calze di nylon e abbiamo residui di cellule corne. E quindi... Questa immagine affascinante che abbiamo dato ai nostri ascoltatori delle nostre azioni in privato, dottoressa. E però è collettivo, perché poi la lamentela è quella. Cominciarono le piogge di fuoco, per molti l'aereo si usa così, volare sì, volare no. Viva l'aereo, se partirò, se arriverò, sarà in aereo. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Che September Ends, settembre sta iniziando, ce lo abbiamo praticamente proprio dietro l'angolo e la campanella quest'anno suona, quella della scuola, dell'inizio della stagione scolastica invece per gran parte delle regioni italiane, proprio il 14 settembre. E con il ritorno a scuola si avvicina anche un altro grande classico, naturalmente della nostra trasmissione, quello del caro libri. Abbiamo il consueto bilancio preventivo già stilato dal Codacons, che ha calcolato che ogni famiglia spende in media 600 euro a figlio per i libri scolastici e quindi è già partita da un bel pezzo la caccia al risparmio per tentare da parte delle famiglie italiane di rendere meno dolorosa possibile dal punto di vista economico questa operazione. Come sapete, appunto, per la nostra trasmissione, ve lo dicevo poco fa, questo è un grande classico, ogni anno ci piace fare un punto della situazione con mamme e papà all'ascolto, con i quali vorremmo confrontarci all'800 24 0024 per una condivisione di esperienza. Allora, quanto dovete mettere sul piatto per il nuovo anno scolastico dei vostri figli? Chiaramente lo sappiamo, la spesa è omnicomprensiva di libri di testo e corredo scolastico, ma facciamo solo un punto sui libri. Quale budget di spesa dovete rendere disponibile? Ne parleremo insieme a voi, insieme agli ospiti che vi presenterò tra poco, fino alle 11.45. Nella seconda parte della trasmissione, invece, parliamo, nella parte di cuore, di una pianta che potremmo ribattezzare la pianta del rientro felice, cioè la malva. Quante volte avete sentito dire la malva da ogni male salva? Quanto c'è del vero in questa affermazione? Quali sono le proprietà di questa erba? Dovremmo assumerne in quantità significativa in vista di questa ripresa del lavoro, anche della scuola, appunto, visto che di scuola parleremo nella prima parte della trasmissione. Di tutte le proprietà della malva, appunto, parleremo dalle 11.45 insieme al nostro Luca Avoledo, naturopata. 800 24 00 24, raccontateci anche le vostre considerazioni su questo argomento. Se la coltivate e per che cosa ne fate uso? Una fionda. Ma è meglio una fionda che una pistola, no? Un mattone. Ma... E i libri, dove ce l'hai? I libri? Ah, ma ce l'ho tutti qua ce l'ho. E che ce fai con tutta sta roba? Ce lo so io. Ce lo sei te? Vabbè, vieni là, via. Volo! Questo Pierino di Alvaro Vitali dice di averli tutti qua, tutti in testa, i libri di scuola. Sarebbe bello effettivamente, se non altro per alleggerire un po' il peso degli zaini dei bambini, anche questo è un altro gran bel tema che magari proprio per tutte le implicazioni che ha sulla schiena affronteremo certamente con Nicoletta Carbone alla ripresa in tandem di Cuore e Denari. Per quello che riguarda invece il prezzo dei libri di testo, sappiamo che la spesa è tutt'altro che trascurabile nell'economia l'economia di una famiglia. Dicevamo, dice il Codacons, circa 600 euro a figlio, un costo a cui si somma naturalmente tutto il materiale scolastico. C'è anche un altro sondaggio che ci è arrivato proprio fresco ieri, è stato condotto da T&Deo, società leader nel settore dei cataloghi e delle offerte online. I dati relativi all'ammontare delle spese mostrano un aumento rispetto all'anno scorso. Il 42% degli intervistati da questa società ha confermato che spenderà di più per il materiale scolastico rispetto a quanto non abbia fatto lo scorso anno. Il 31% degli utenti interpellati spenderà fra 200 e 500 euro in acquisti di materiale scolastico, seguito da un 9% che spenderà fra 500 e 1000 euro. Addirittura c'è pure un 1% di questo campione che spenderà più di 1000 euro. È evidente che questo succederà per quelle che probabilmente per quelle famiglie che hanno scelto un indirizzo particolarmente specializzato di scuola per i figli, parliamo evidentemente delle scuole superiori, ma insomma si può arrivare addirittura a spendere per l'inizio dell'anno scolastico più di 1000 euro. Per questo in tanti si stanno muovendo in anticipo su tutti i fronti per cercare di risparmiare. Allora, famiglie all'ascolto, siete tra questi? 800 24 00 24, quanto dovete mettere sul piatto per il nuovo anno scolastico dei vostri ragazzi? Come sempre, qualche calcolo lo ha fatto anche scuola.net, scuola con la K, e quindi torna con noi stamattina l'amico Daniele Grassucci, che non ha mancato di stilare anche il consueto elenco di consigli per risparmiare su questa spesa che, come dicevo, soprattutto se si tratta di iscrivere un figlio al primo anno di scuola media o al primo di scuola superiore, comporta un esborso davvero notevole. Daniele, ben ritrovato, buongiorno. Ben trovato Deborah, buongiorno. Volevo salutare anche un altro ospite che ritorna con noi, ne siamo molto contenti, Salvatore Giuliano, preside dell'Istituto Tecnico Ettore Maiorana di Brindisi. Perché interpelliamo anche quest'anno questa scuola e il preside Giuliano? Perché è capofila dell'iniziativa Book in Progress, è un progetto molto importante nato proprio per combattere il caro libri, nel quale docenti e professori sono oltre 300 quelli attualmente coinvolti, diventano i veri e propri autori dei libri di testo e quindi in sostanza fanno un po' loro il lavoro dell'editoria scolastica, probabilmente anche con qualche polemica, ma noi quello che interessa è capire quanto grazie a questo impegno le famiglie risparmino. Preside Giuliano, buongiorno, benvenuto. Salve, buongiorno a tutti. Grazie per aver chiamato. Allora, da che cosa cominciamo? Abbiamo letto in questi giorni tanti articoli su tanti giornali, in molti si sono impegnati a soprattutto così cercare di individuare le iniziative di mercato che possono permettere alle famiglie di risparmiare. Ce n'era uno della Stampa di due giorni fa che raccontava, aveva fatto per noi un po' un lavorone di riassunto di tutti, per esempio, i siti internet o i grandi marchi della distribuzione moderna, i supermercati, i centri commerciali dove si possono appunto acquistare libri con risparmio notevole. C'è per esempio tutta l'iniziativa di Amazon che permette il 15% di sconto fino al 13 settembre sui libri nuovi che si possono acquistare online. Sul sito della Coop si possono fare lo stesso acquisti scontati. C'è anche la possibilità di riscatto a fine anno su libreriascolastica.it. La caccia però è soprattutto, Daniele Grassucci, sul libro usato. Se cerchiamo l'usato, cominciamo subito con qualche consiglio appunto su questo. Dove dobbiamo andare? Cosa è meglio fare secondo te? E poi soprattutto, voi avete quantificato a quanto ammonta la cifra media, la spesa media che una famiglia dovrà sostenere quest'anno per questo avvio di anno scolastico? In teoria, se fossimo in un mondo ideale, cioè quindi se non fossimo in Italia e quindi fossero rispettati i tetti di spesa, in realtà la spesa non sarebbe come quella che ha quantificato il Codacons, perché non so se tutti gli ascoltatori sanno, ma esistono dei tetti di spesa a cui le scuole devono attenersi quando adottano i libri di testo. Ad esempio, in prima media la spesa dovrebbe essere al massimo di 300 euro, mentre nei superiori, per il primo e per il terzo anno, che sono gli anni in cui c'è più ricambio di libri, quindi più costosi, sarebbe tra i 250 e i 350 euro. Mettiamoci un uno, due, tre dizionari che magari fanno lievitare la cifra, ma che comunque si ammortizzano per anche 8 anni di studio, perché se uno compra un buon dizionario alle medie, se lo tiene anche per le superiori, comunque vediamo bene che è difficile arrivare a 600 euro e comunque qualora ci si arrivi appunto con una buona quota di dizionari di altra dotazione che poi rimane per sempre. Il problema è che purtroppo in Italia i controlli sono molto laschi, ogni anno il 30% delle classi sfora sistematicamente i tetti di spesa, e nonostante questa norma sia attiva da anni non si riesce a placare questo fenomeno. Allora, quindi, prima di andare al tema dell'usato, fammi sentire che cosa ne pensa il preside Giuliano di questa faccenda. Che punto siamo, preside, con la questione dei tetti di spesa che le scuole sono chiamate a rispettare, ma che invece sforano a quanto pare in totale libertà, senza che nessuno possa dire niente? Naturalmente tutto questo poi si ripercuote su questo bilancio familiare, che in questo periodo dell'anno veramente un po', perché si ritorna dalle vacanze, insomma, c'è da mettere a budget veramente tutta una rosa di spese che non riguardano solamente la scuola. La questione dei tetti di spesa è una questione antica, già da diversi anni, forse da troppi anni se ne parla. Di recente, negli ultimi anni, sono state anche serrate, come dire, le indicazioni fornite alle istituzioni scolastiche, e qui c'è una responsabilità diretta del dirigente scolastico che deve far sì che le delibere approvate dal Collegio dei Docenti in merito alle adozioni dei libri di testo, appunto, rispettino i cosiddetti tetti. Si è aggirato negli anni passati questo tetto di spesa con i cosiddetti libri di testo consigliati, che appunto non entravano a determinare il tetto di spesa. Era un escamotage che è stato molto utilizzato anche in modo maldestro da tante istituzioni scolastiche. Da qualche anno si è fatto anche riferimento al fatto che i libri di testo consigliati comunque debbono essere inseriti nella determinazione del tetto di spesa massimo. Tuttavia, nonostante queste indicazioni, prescrizioni peraltro, mi risulta che in diverse istituzioni scolastiche questo tetto di spesa appunto non venga osservato. Cosa consiglio? Consiglio che il consiglio che mi sento di dare è quello di segnalare queste situazioni, perché sono situazioni che comunque compromettono il budget delle famiglie, ma che comunque sono fuori norma. Certo, ma sa, preside, se poi la segnalazione è fine a se stessa, rimane lì, non esiste nessun meccanismo, mi passi il termine, sanzionatorio per quella scuola che non ottempera questa disciplina, poi, come dire, la segnalazione a che cosa ci serve? Magari, che ne so, cioè può essere un effetto di tipo reputazionale, ma voglio dire, le famiglie italiane poi ne possono essere consapevoli di quanto conti una segnalazione di questo tipo per una scuola che non rispetta il tetto di spesa? C'è una responsabilità diretta e disciplinare del dirigente scolastico. Ah, ecco, quindi c'è un meccanismo sanzionatorio. Però, come dire, nel nostro bellissimo paese molto spesso le norme vengono disapplicate, e questo è un serio problema che meriterebbe, come dire, altre 10 puntate. Certo, è comunque, insomma, un elemento sul quale possiamo stimolare gli ascoltatori, magari quest'anno forse non si fa più in tempo, l'anno prossimo, nel caso nel 2015-2016 dobbiate mettervi alla ricerca della scuola che il prossimo anno vostro figlio frequenterà, magari andate anche a controllare un po' come si comportano i dirigenti scolastici su questo argomento. Detto questo, troviamo invece subito qualche considerazione degli ascoltatori che stanno affrontando in questo momento la spesa per il nuovo corredo scolastico, ma soprattutto per tutto il nuovo corredo di libri scolastici. Io sentirei subito Simone da Milano, che è pronto all'800240024 per poter commentare questo caso con i nostri ospiti. Simone, benvenuto. Buongiorno. Beh, vedo una cifra ragionevole per quello che la riguarda, oppure per lei? Sì, mi sembra un po' esagerata, secondo me, la spesa. Il mio figlio affronta il primo anno di superiore liceo linguistico di scienze applicate, ma abbiamo affrontato una spesa di 220 euro per i libri. Senta, ma perché ha, come dire, attivato qualche strategia particolare, oppure è andato tutto sul nuovo e la spesa... No, siamo andati tutto sul nuovo e vabbè, sì, abbiamo preso la coppa, ma è il 15%... Massimo arriviamo, certo, a 280. Beh, evidentemente questa scuola, Daniele Grassucci, com'è possibile che si abbassi così tanto la media? E le cifre che abbiamo dato non sono poi quelle che appunto le cifre di Simone non sono assolute, è molto distante, insomma, questa spesa di Simone rispetto a quella media che abbiamo indicato all'inizio di programma. Beh, come abbiamo detto, appunto, il problema è che qui c'è una giungla, quindi abbiamo magari, ecco, dei casi in cui effettivamente si va molto sopra a quello che è il consigliato, e quindi comunque senza che nessuno intervenga, oppure dei casi e per questo ringrazio insomma l'amico Salvatore Giuliano che è in linea, perché sta facendo secondo me un'opera meritoria, ecco, sta dimostrando che i libri possono costare di meno, perché ecco ci sono scuole in cui invece con adottando tutti i libri di Book in Progress, se non erro, si arriva a spendere 100 massimo 150 euro, quindi questo è il problema della nostra scuola, che non si riescono a mettere a sistema le buone pratiche, quindi ecco trovi una scuola in un quartiere che funziona bene rispetta la norma e fa anche qualcosa di più, e trovi magari un isolato dopo una scuola che non rispetta la norma, e continua a andare avanti così, insomma. Certo. Purtroppo dobbiamo renderci conto di questo, ecco, forse la vera buona scuola è sì garantire l'autonomia, e questo siamo tutti d'accordo, ma anche far sì che ci sia un quadro di riferimento normativo unico e che tutti lo rispettino. Daniele, certo. Allora andiamo al vostro elenco di consigli e suggerimenti per le famiglie per risparmiare, per rendere, come dicevo prima, meno doloroso questo mese dell'anno, no? Poi li commentiamo insieme. Cominciamo con il tema dell'usato. Se cerchiamo libri usati, dove dobbiamo andare? Cosa è meglio fare? Beh, innanzitutto ecco, dobbiamo ricordarci che il libro usato deve essere un'opzione praticabile, laddove ecco, siamo sicuri che non ci sia stato un cambio di edizione o comunque che la vecchia edizione, questo però è necessario un confronto col professore, in qualche modo sia funzionale all'attività didattica, ecco, perché sennò si rischia di magari acquistare un libro che alla fine non è utile, quindi di dover poi fare il cosiddetto un altro acquisto, quindi risparmio, insomma, detto insomma da noi, dalle nostre parti dice risparmio di Maria Calzetta, cioè nel senso comunque un finto risparmio, perché ecco poi c'è oltre al libro usato di dover comprare un libro, quindi assolutamente accettarsi ecco del fatto che sia assolutamente l'ultima edizione disponibile, e poi anche trovarli in buono stato, quindi ecco in uno stato non troppo degradato, perché ecco potrebbe questo costituire una difficoltà per lo studente, quindi il consiglio non è di cercare il massimo risparmio, perché magari si può anche arrivare a pagare un libro usato il 30% del prezzo di copertina, però magari è una vecchia edizione oppure è molto usurato e quindi può non andare bene, quindi consiglio di cercare un buon usato, quindi andare su un risparmio magari del 50% che però garantisca una funzionalità e eviti un riacquisto di un altro libro usato, di un libro nuovo, quindi in questo senso è opportuno guardarli i libri, quindi ecco sicuramente tutti quelli che sono i mercatini che vengono organizzati nelle varie città, ce n'è un elenco lunghissimo, abbiamo noi su scuola.net, ma cercando anche diciamo sulla stampa, l'editoria locale, è facile trovare dove sono posizionati questi mercatini, poi ci sono gli operatori di settore tipo Libraccio, insomma sono specializzati nella compravendita del libro usato, ecco, quindi andare sul territorio a mio avviso è meglio dell'online, perché il libro si può sfogliare, quindi si può verificare insomma se funziona, certo, bene. L'Unione degli studenti ha anche organizzato dei mercatini, esatto, di libri. Unione degli studenti, ecco, specifichiamolo bene, perché peraltro hanno anche una bella pagina su Facebook con tutte le informazioni sulle iniziative delle diverse città, per cui insomma gli stessi studenti si danno un gran da fare. Assolutamente sì, perché ecco, il problema è che di quello che ho citato prima, cioè dei mercatini e degli operatori specializzati, che chiaramente essendo organizzazioni commerciali, essendo degli intermediari, devono avere la loro fetta di guadagno, per cui chiaramente questo si va un po' a mangiare il risparmio. Invece poter contattare altri studenti, quindi il contatto diciamo da produttore a consumatore senza intermediario, permette di ottenere maggiori risparmi, ecco, quindi magari uno studente che vendendo il proprio libro magari da una catena specializzata lo vedrebbe valorizzato il 30%, magari è contento di venderlo al 40% il prezzo di copertina, per contro chi acquista magari lo paga il 40% del prezzo di copertina invece del 50%, perché si è saltato l'intermediario. Infatti molti studenti che si rivolgono a libri usati cercano proprio di acquistarli da altri studenti, perché sono consapevoli che c'è una maggiore possibilità di risparmio. Certo. Allora 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, siamo live naturalmente come tutto l'anno, 349 238 6666, il numero che invece potete utilizzare per scriverci messaggi. Sentirei Umberto da Roma adesso e mi dà un assist perfetto per la prossima considerazione col preside Giuliano. Umberto, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Io chiedo scusa, diciamo, magari non sono nella platea principalmente interessata, nel senso che non sono più né uno studente e non sono ancora un genitore, però sentendo la trasmissione io veramente ero curioso di avere una risposta magari da voi un po' più approfondita di quelle che mi vengono banalmente in mente a me a questa domanda. Nel senso, io trovo che ad oggi sia tempisticamente anacronistico e socialmente inaccettabile che ci siano genitori che purtroppo debbano comprare o svenarci per cercare libri usati e quant'altro per risparmiare su delle cifre assurde che si pagano per i libri, senza appunto parlare poi del peso stesso fisico dei libri sulle schede. Non riesco a capire come sia possibile che non si riesca a introdurre un sistema, diciamo, un minimo un po' più all'avanguardia, penso a ebook o comunque dei tablet a basso costo che permettano, oltre diciamo una dimestichezza con degli strumenti decisamente più al passo coi tempi, anche un fortissimo risparmio economico da parte. Allora Umberto, grazie per questo assist, come le dicevo, un tema che avremmo voluto affrontare nella seconda parte della trasmissione. Io, come dire, in prima battuta quello che mi viene in mente è preside Giuliano, che intanto c'è tutta l'industria dell'editoria scolastica, che non è che si possa demolire quella tradizionale cartacea da un giorno ad un altro. Non è neanche facile per una scuola adottare nel giro di poco tempo tutti questi nuovi dispositivi di lettura elettronica, chiaramente, perché anche quello poi è una rivoluzione culturale, è rilevante. Probabilmente ci arriveremo nel giro di qualche anno, non dico di moltissimi anni, perché qua la rivoluzione tecnologica è talmente veloce che farà in modo che anche le scuole italiane, anche se lente e tardive su tante cose, si adeguino anche a tutto questo. Molte lo stanno già facendo, però insomma ci sono tutta una serie di problemi, per cui però l'osservazione di Umberto ci sta tutta. Che ne dice? Sì, il discorso sull'innovazione è un discorso importantissimo. Allora io inizierei dal descrivere un po' il book in progress, che cos'è. Perfetto. È nato 5 anni fa al Maiorana di Brindisi da un gruppo di lucidi folli, io e altri 4 docenti, che abbiamo pensato un giorno di scrivere noi i materiali che andavano a sostituire i tradizionali libri di testo per personalizzare un po' il percorso di apprendimento dei nostri ragazzi. In questi anni si è costituita una rete nazionale alla quale partecipano circa 200 istituzioni scolastiche di ogni regione d'Italia e i docenti che collaborano insieme alla redazione, rivisitazione, correzione, miglioramento dei contenuti sono circa 1200 in tutta Italia. Che cosa ha il valore aggiunto di questo progetto? Beh, innanzitutto il risparmio di spesa, visto che si parla di questo oggi, è una dotazione libraria di una prima classe di una scuola secondaria di secondo grado, book in progress cartaceo, perché facciamo sia il cartaceo che il digitale. Il cartaceo non supera di norma 50 euro per tutti i volumi di una prima classe. E il digitale, che è un digitale interattivo, multimediale interattivo, perché poi anche qui bisogna fare un po' di chiarezza, no? Molto spesso assisto a dibattiti, meglio il cartaceo, meglio il digitale. Sono due cose completamente differenti, soprattutto nella scolastica, nell'editoria scolastica. Se noi pensiamo di prendere un libro in formato PDF e fruirlo su un tablet, non abbiamo fatto una grande operazione, quindi certo, un'operazione molto intelligente. L'ebook per la scolastica deve contenere quelle cose che naturalmente fisicamente su carta non vanno, quindi video, animazioni, testi interattivi, la possibilità di condividere, la possibilità di intraprendere percorsi di apprendimento collaborativo, cooperativo. E quindi cosa facciamo noi? Quindi la sostenibilità del progetto. Le famiglie, invece di spendere quelle cifre di cui abbiamo parlato, spendono solo 50 euro per la dotazione cartacea. Proponiamo alle famiglie, se questo loro risparmio di spesa vogliono investirlo in tecnologia, le famiglie hanno sempre accettato e si sono dotati, peraltro anche a condizioni agevolate rispetto alle comuni condizioni di mercato, di un dispositivo. Nel dispositivo inseriamo le versioni digitali interattive e multimediali e la tecnologia cambia il modo di stare in classe. Quindi il progetto Book in Progress da contenuto, da prodotto, quindi da un prodotto cartaceo, si sta trasformando e si è trasformato in moltissime realtà in un nuovo metodo di apprendimento. Preside Giuliano, ecco, adesso torneremo su questo tema. A che ritmo le nuove scuole aderiscono al vostro progetto? Circa 200 abbondanti scuole sul territorio, lei ci diceva, in questo momento fanno parte di tutta la rete di Book in Progress, ma insomma è una rete soddisfacente? Secondo lei vorrebbe un'adesione più massiccia? No, noi ripeto, non vogliamo scompaginare nulla, aderiscono alla media di circa 40-50 istituzioni scolastiche ad anno. Insomma, comunque è buono. Sì, aderiscono. Ripeto, non si tratta di sostituire il tradizionale libro di testo, ma di affrontare una sfida più importante, quella di cambiare il modo di fare scuola. A me piace molto dire sempre, fare questo esempio, no? Se un nostro antenato tornasse in vita non riconoscerebbe la propria città, ahimè se tornasse nella sua classe la troverebbe identica. Nel frattempo è cambiato il mondo. Esatto. E quindi perché non cambiare? Quindi cambiare completamente l'asset d'aula si può fare, ripeto, si può fare, lo abbiamo fatto. Ci vuole un grande impegno anche da parte degli insegnanti, questo glielo dobbiamo riconoscere, preside Giuliano, e questo ci dà l'assist per un altro dibattito che non è opportuno affrontare a cuore e denari. Magari la sede potrebbe essere diversa, noi dobbiamo parlare qua di risparmio, di famiglie e di tutto ciò che permette appunto a mamme e papà di rendere poco doloroso questo inizio di anno scolastico dal punto di vista economico, perché noi invece vogliamo che sia all'insegna dell'entusiasmo totale per i ragazzi che partono con una fase ulteriore della loro crescita personale, e per cui ecco, vogliamo impostare il dibattito in questi termini. 800 24 00 24 il numero verde intanto per gli interventi degli ascoltatori che sentiremo, sono pronti Elio ed Ettore dopo la borsa. Cuore e denari. Voglio andare di fretta, i rumori, la nebbia, il tempo appeso di questa città. Odio le scarpe col tacco che il castro distratta, nei tombini invadenti di questa città. La potete vedere nelle aiuole in città, ma anche ai bordi delle strade o in vaso sui balconi. Fiorisce in estate, le sue foglie e i suoi colori color rosa violaceo hanno un potere idratante, emoliente ed antinfiammatorio. Parliamo di malva, ma quali sono le sue proprietà, gli usi più frequenti? Lo scopriremo nell'ultima parte della trasmissione. Voi intanto iniziate a segnalarci perché cosa la usate e come all'800 24 00 24 tramite infuso, in pacchi o addirittura nell'insalata. Presto suonerà la campanella che segnerà l'inizio di un nuovo anno scolastico. Noi continuiamo a parlare di caro libri, di opportunità di risparmio. Non posso però non ricordarvi che lunedì prossimo, 31 agosto, suona anche la nostra campanella. Intanto finalmente ritorna la mia Nicoletta Carbone. Poi insieme ripartiremo per una nuova stagione di Cuore e Denari in un nuovo orario. Segnatelo sul vostro calendario, dalle 10.30 alle 12, anticipiamo di mezz'ora. Non mancate, segnatevi questa novità. Intanto 800 24 00 24 il numero verde che potete comporre per raccontarci che succede in questa vigilia di inizio anno scolastico a casa vostra. Davvero avete speso 600 euro per i libri di scuola? Molti ascoltatori ci dicono che sono molto lontani da questa cifra. Che strada avete tentato per risparmiare? Mercatino dell'usato, internet, supermercato? Ormai la commercializzazione dei libri di testo avviene su molteplici canali, oppure la vostra prole andrà a scuola in uno di quegli istituti che aderiscono a Book in Progress, questa iniziativa che ci ha molto ben spiegato il preside Giuliano Delliti, appunto Maiorana di Brindisi, che è capofila di questa incredibile iniziativa che ormai si sta spargendo a macchia d'olio in tutte le scuole italiane. Daniele Grassucci, ritorno a te, responsabile della comunicazione di scuola.net. Ti volevo chiedere un commento su questa iniziativa che tu segui sin dall'inizio, inizio, su Book in Progress, un po' la sensazione che percepisci fra le scuole che hanno aderito, fra quelle che la stanno annusando, fra le famiglie, insomma siamo pronti a questa rivoluzione culturale? Ma in realtà direi sì, cioè nel senso che ci sono alcuni problemi. Il primo è questo, che comunque come dicevi giustamente prima, c'è l'industria dell'editoria elettronica che cioè dell'editoria scolastica tradizionale, in modo tradizionale, che va tutelata, perché comunque c'è una grossa filiera dietro. Però ecco, io ritengo che l'esperienza di Book in Progress in qualche modo ci abbia dimostrato che i costi industriali per la produzione del libro cartaceo e del libro digitale, ecco, siano quelli di 5 euro. Ecco, poi se ci vogliamo mettere sopra il fatto che non dobbiamo retribuire gli autori, perché comunque gli insegnanti lavorano su base volontaria quasi, quindi mettiamoci un 30% in più, mettiamo che dobbiamo pure dare tutti, diciamo, coprire i costi della distribuzione, quant'altro, c'è cioè un altro 30% in più, da 5 euro potremmo arrivare a 10, 12, massimo 15 euro, quindi i libri che ne costano 25-30, ecco, si fa fatica a capire Perché ecco, forse c'è un tema ecco, di riequilibrare il guadagno, cioè di ristrutturare un po' il settore facendo in modo che i venditori possano continuare la loro attività, ma nel contempo a prezzi più equi, ecco, perché appunto la loro esperienza dimostra che si può fare un testo di ottima qualità, un digitale di ottima qualità e a comunque dei prezzi competitivi. Tra l'altro c'è anche da pochissimo un regime fiscale più vantaggioso sugli ebook. Assolutamente, infatti sul digitale secondo me c'è stato un grosso equivoco, ecco, nel senso che quando la Gelmini impose dalla legge di stabilità del 2008 il fatto che dal 2011-2012 tutti i libri diciamo di nuova adozione fossero tutti o digitali o in versione mista, in realtà quella norma nasce come una norma di risparmio per le famiglie e di risparmio per lo Stato, perché chiaramente poi c'è tutta un'erogazione di fondi da parte dello Stato per il comodato d'uso e per il welfare, per cui se risparmiano le famiglie risparmia anche lo Stato sui libri di testo. E poi quella norma è stata disattesa di anno in anno e poi diluita e depotenziata, per cui ecco siamo arrivati all'ultima norma della carrozza in cui le scuole non sono obbligate ma possono adottare libri digitali o libri misti. Ecco, quindi si era partita dall'idea che prendendo un libro, facendolo in PDF e distribuendolo in formato elettronico costasse pochissimo o niente. In realtà l'ebook, come diceva giustamente prima il presidente Giuliano, non è un PDF, è un qualcosa che utilizza le potenzialità dei nuovi mezzi, anche perché mi immaginate un ragazzo che deve stare per 10 ore a leggere un tablet come magari potrebbe leggere un cartaceo. Infatti. Cioè bisogna adeguarsi alle piattaforme, per cui ecco un libro digitale deve essere un libro che ha dei video, che ha degli strumenti di interattività. Deve essere un'operazione che ha un senso didattico oltre che educativo, come ci dice anche Ettore dalla provincia di Siena, una voce un pochino fuori dal coro questa mattina. Ettore, buongiorno. Libri insostituibili, dice lei, altro che tutto questo dibattito sugli ebook e dispositivo digitale. Questo è quello che penso io. Io pochi anni fa mi avevano detto che in Italia sarebbero spariti i libri, come già è successo all'estero. Allora, avendo una nipote in Francia, li telefonai subito e mi disse: ma chi te l'ha detto? Quindi noi in Inghilterra andai a visitare delle scuole con un progetto insomma europeo e i libri li usano. Perché non li comprano? Perché è la scuola stessa che li mette a disposizione. E poi ecco anche il discorso dei costi, vedi i ragazzi con scarpe da 200-300 euro e dici ma allora qualcosa non torna. Quella battaglia del telefonino, questa Daniele Grassucci te la ricordi, la grande battaglia di Mario Rusconi, preside del liceo Newton di Roma, che tante volte ha fatto questa considerazione proprio ai nostri microfoni quando parlavamo di questo argomento negli anni passati. Si fa un gran parlare di questo problema, tra virgolette, del costo dei libri di testo, dei libri scolastici, appunto, e poi naturalmente accontentiamo i nostri figli con tutto il resto, le scarpe all'ultima moda, il telefonino e quant'altro. Ci sta anche questo di dibattito, sì, no? Sì, assolutamente, ecco, è corretto questo come cosa, però ecco, bisogna anche pensare che comunque se Salvatore Giuliano riesce a fare un libro con 5 euro, continua a dire... Facciamoci delle domande, certo. Facciamoci delle domande, interroghiamoci, ecco, o lui è particolarmente bravo o... Vabbè, lui e altri 300... Sicuramente lo è, però ecco... Ci dobbiamo interrogare e dobbiamo forse utilizzare questo modello per ripensare un po' tutto quel tipo di industria. Siamo assolutamente certi che Salvatore Giuliano non sia proprio un visionario, ma un innovatore e un professore, un preside molto responsabile, ben consapevole che il mondo sta cambiando, che le famiglie hanno dei problemi, quindi insomma si è messo lì seduto e ha cercato di capire come poter dare il suo contributo per cominciare a superare questo problema. Poi lo faccio concludere appunto al preside Giuliano, volevo far fare un ultimo commento e deve essere molto rapido ad Elio dalla provincia di Treviso, perché tra un minuto devo cambiare argomento. Elio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io appunto sono un insegnante, sto appunto tornando da scuola e ho sentito occasionalmente la vostra trasmissione e sono rimasto colpito quando lei in modo particolare ha detto a proposito del caro libri, ma se non c'è una norma, se non c'è una sanzione, allora è inutile. E che questo per me è l'errore di fondo, che si punta troppo sull'elemento sanzionatorio e non su un elemento di responsabilità, cambiamento culturale. Certo. Noi siamo insegnanti, siamo anche genitori, noi abbiamo questa norma, la facciamo rispettare, la rispettiamo noi stessi, ma non perché c'è una norma sanzionatoria, perché semplicemente ecco, è giusto, perché abbiamo a che fare giornalmente con i genitori, con problemi dei genitori, qui nel nord-est ce ne sono problemi parecchi, e per cui perché una norma sanzionatoria non basta, la deontologia professionale dovrebbe bastare naturalmente, però visto che non basta sta, Elio, che cosa le devo dire? Apriamo il dibattito anche sul tema sanzionatorio, ma come dicevo prima non è quello che ci interessa questa mattina. Preside Giuliano, voglio concludere con lei con un ultimo messaggio, appunto devo cambiare argomento, 30 secondi per un saluto alle famiglie italiane da parte di un rappresentante del mondo della scuola. Non abbattiamoci troppo se la spesa quest'anno sarà alta, insomma come vogliamo far partire queste famiglie in questo nuovo anno scolastico? Il consiglio che mi sento di dare è quello che io applico a me stesso ogni giorno, applicate in ogni cosa che fate, quindi vale anche per lei, che è bravissima, le famose 3P, quindi qualunque cosa voi facciate per avere un buon risultato, applicate le 3P che sono passione, passione e passione, difficilmente i risultati saranno deludenti. Quindi passione ai docenti, per la scuola, è particolarmente importante, perché se si sceglie un indirizzo scolastico che è quello che appunto ci fa esprimere al massimo la nostra passione, la vita parte certamente sotto auspici diversi. Grazie Preside Giuliano, ci risentiamo probabilmente l'anno prossimo, chissà, per capire un po' come sta andando e se questa rete di scuole che aderiscono alla vostra iniziativa si sia implementata ancora. Grazie anche a Daniele Grassucci, scuola.net, segnalo a tutti gli ascoltatori il loro sito, come sempre faccio, se volete andare a scaricarvi anche il, e non solo questo, decalogo, che in realtà è fatto di 9 punti, del risparmio appunto per l'inizio dell'anno scolastico. Grazie Daniela, presto. Grazie Deborah, a presto. Velocemente il traffico e poi andiamo al nostro nuovo ospite che è già pronto, collegato telefonicamente con noi, lo saluto già, Luca Voledo, buongiorno naturopata. Buongiorno Deborah e buongiorno agli ascoltatori di Cuore Denari. Va bene un po' di malva anche per far partire bene l'anno scolastico? Perché no? Perfetto, ne parliamo tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Cuore e Denari. L'estate sta finendo... È un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va. 27 agosto e già parliamo di un'estate che sta finendo, a me questa cosa proprio non va giù, chissà in quanti di voi finiranno proprio questa settimana le loro vacanze. Noi vogliamo in quest'ultima parte che ci rimane di Cuore Denari cercare di alleviare al massimo il vostro rientro, renderlo quanto meno stressante possibile, per cui abbiamo deciso di farlo presentandovi una pianta dalle proprietà emolienti, idratanti e rilassanti. Parliamo della malva, lo facciamo insieme al dottor Luca Voledo che abbiamo salutato poco fa, nostro naturopata preferito. Buongiorno dottor Voledo, ben ritrovato. Le sue vacanze quando sono terminate? Da pochissimo oppure rientrato da un po' prima di noi? Da pochi giorni. Come le nostre. Allora, il nome malva deriva dal latino? Ah beh, lo chiede? E certo, perché io non so, perché io non ricordo bene dove mettere l'accento, per cui la attribuisco a lei questa responsabilità. Malva significa mollire album, vuol dire ammorbidire, sì, perché proprio fa riferimento alle sue proprietà emollienti, lo dicevi, emollienti, cosa vuol dire emollienti? La capacità di decongestionare, sfiammare i tessuti infiammati. Facendo un po' di ricerca abbiamo trovato addirittura che Plinio considerava la malva silvestris, che è quella di cui ci occupiamo oggi, come officinale. Ma come fa questa pianta? Cosa fa di questa pianta una delle più apprezzate dalla fitoterapia, dottora Voledo? Dalla fitoterapia moderna, ma anche appunto dall'antica tradizione erboristica popolare che l'ha impiegata proprio per secoli. Sì, Plinio, ma anche Cicerone e molti altri la apprezzavano proprio per queste sue proprietà di cui dicevamo, emollienti, e anche per parlare come parlano quelli che parlano bene, bechiche, cioè che favoriscono addirittura anche l'espettorazione, quindi una pianta utile anche per, adesso ci avvicineremo sperando con lentezza all'inverno, nell'infezione delle vie respiratorie, nella tosse eccetera eccetera. Tra l'altro la possiamo trovare davvero in molti luoghi, fiorisce da maggio ad ottobre, la possiamo rintracciare ai bordi delle strade, nelle aiuole, possiamo anche coltivarla sul nostro balcone in un vaso, in città le parti usate in ambito fitoterapico sono le foglie e i fiori, ma i principi di questa pianta quali sono quelli che contiene? In particolare i principi attivi chiamati mucillageni. I principi attivi sono le sostanze responsabili delle qualità salutistiche di una pianta e si tratta di mucillageni che appartengono al gruppo delle fibre, in particolare delle fibre solubili. Allora, 800 24 00 24, interpello anche per questi ultimi minuti di Cuore e Denari i nostri ascoltatori per raccontarci se siete degli utilizzatori di malva, dei consumatori di malva o dei coltivatori di malva addirittura, quali sono i principi che secondo voi fanno meglio al vostro fisico, perché scopro col dottor Avoledo che fra le principali proprietà di cui gode questa pianta appunto c'è anche quella antinfiammatoria oltre a quella emoliente. Viene usata questa pianta contro l'acidità e il mal di stomaco. Cosa agisce in questo caso, dottor Avoledo? Verissimo, la malva è perfetta ad esempio contro i fastidi legati al reflusso gastroesofageo, proprio per queste sue proprietà antinfiammatorie che si devono proprio alle mucillagini citate che lei contiene, e le mucillagini sono, si rigonfiano a contatto dell'acqua e formano una specie di gel, una pellicola, una massa gelatinosa che va a proteggere le mucose dello stomaco e dell'esofago, che in questo modo vengono appunto difese, protette dall'azione, dall'attacco degli acidi gastrici, e quindi danno sollievo e sedano un po' il bruciore e tutti i sintomi legati a questi fastidi. Come facciamo a consumarla intanto? Leggevo su un sito in cui lei stesso spiega di un macerato a freddo di malva. Io immaginavo invece di dover fare una tisana calda, probabilmente qualcuno ha ipotizzato invece l'esistenza di compressine di malva, no? Insomma, invece come la troviamo in commercio e come possiamo assumerla? Certo, benissimo, andate pure a vedere il video sul mio sito, ma intanto ve lo racconto che il macerato... Noi intanto lo mettiamo su Facebook, così perfetto. Almeno accelereremo il numero delle aperture del suo video e i like, come si dice in gergo dei social. Intanto però ve lo dico brevemente, è una tisana giustamente proprio che si prepara da sola quasi. Ogni sera si prende un cucchiaio da cucina di foglie e fiori di malva per tazza d'acqua, si mette in infusione a gas spento, cioè proprio senza accendere il fuoco, nell'acqua a temperatura ambiente, si copre, si lascia lì tutta la notte e alla mattina la tisana è già pronta, quindi un'infusione a freddo, un'estrazione a freddo e poi si può consumare. Per quello che riguarda invece le controindicazioni, è una pianta che ne ha, c'è qualcuno che è bene che ne stia lontano, qualcuno che non può assumerla oppure si può assumere tranquillamente anche se magari non ne abbiamo come dire mai fatto uso, possiamo avventurarci per una prima volta? La malva è in assoluto una delle piante, non è detto che tutte le piante siano sicure, ma la malva sì, più tranquille, prive di controindicazioni, di interazioni, di effetti indesiderati, si può usare anche serenamente in gravidanza e in allattamento e anche da parte dei bambini, quindi la malva è molto molto sicura. Che sapore ha? Non è un sapore buonissimo, io soprattutto poi consiglio di non azzuccherare, quindi potrebbe non essere gradita a tutti, però insomma fa bene e quindi ce la facciamo piacere. Dottora Avoledo, c'è un'ascoltatrice al 349-238-6666 che scrive: mia nonna quando aveva mal di denti mi raccontava che si metteva qualche fogliolina di malva in bocca, quindi anche in questo senso quando prima ci spiegava delle proprietà antinfiammatorie, questo è un esempio di come può curare un'infiammazione la malva? La nonna che la sapeva lunga, aste, piccole lesioni del cavo orale, gengiviti e simili fastidi beneficiano proprio dell'impiego della malva per queste proprietà antinfiammatorie di contatto appena descritte. Non va bene però per ogni tipo di infiammazione, ma solo per quella a cui le mucillagini riescono ad arrivare, con un'azione di contatto diretto, quindi nella pelle, la bocca, l'esofago, lo stomaco, ma non per esempio se ho l'articolazione del ginocchio infiammata, in quel caso servono altre piante. Leggo anche che può combattere, adesso lei mi deve dire bene che cosa devo fare, allora il gonfiore degli occhi, che è invece una situazione nella quale io mi trovo ricorrentemente, e non dica che è per colpa dell'età, dottora Avoledo, perché sennò non le parlo più. No, per esempio, ecco, per combattere questa situazione frequente che a me capita, la malva posso usarla a questo punto senza andare a fare chissà che cosa? Certo, possiamo possiamo cominciare con la malva. Anche qua il merito è sempre delle citate mucillagini, e anche in questo caso si possono usare, in questo caso per uso esterno, degli impacchi oculari per decongestionare gli occhi. È un modo molto semplice, è qui usare la malva in bustine. Si prendono le bustine, si mettono in infusione per un minuto, in questo caso anche nell'acqua calda volendo, si estraggono, si mettono magari per un minuto ancora in acqua ghiacciata in questo caso, quindi l'azione emolliente e del freddo che in qualche modo va a vasocostringere, si mettono le bustine sugli occhi una volta sdraiati e si sta lì un quarto d'ora. Ottimo, senta, invece per sfiammare il colon leggo anche che è molto utile. Bravissima, ci siamo dimenticati di uno degli usi più importanti della malva, proprio in questo caso per la sua tendenza appunto delle mucillagini di rigonfiarsi d'acqua, nella stitichezza e nella sindrome dell'intestino irritabile con tendenza alla pigrizia intestinale, la malva ha una delicata azione lassativa perché le mucillagini in qualche modo rendono il contenuto intestinale più morbido e agiscono meccanicamente sulle pareti dell'intestino stimolando dolcemente i movimenti, quindi l'evacuazione. Non è un purgante, è proprio un lassativo molto dolce. Gabriella da Monza e Carlo da Fermo, i nostri ascoltatori che subito metto in pista per gli ultimi minuti di Cuore Denari. Gabriella, buongiorno. Buongiorno. Allora, la sua malva lei ce l'ha in balcone, sul vaso. Sì. Come la usa e perché? Sì. La uso perché mio marito, avendo glaucoma, mettendo molti colliri, ha questa infiammazione degli occhi. Certo. Quindi ne beneficia, allora, gli fa bene. Sì, decongestioniamo con gli impacchi di malva. Benissimo, quindi a suffragare quello che appunto ci indicava poco fa il dottor Avoledo. Grazie Gabriella. È difficile farla sopravvivere in balcone? Io ce l'ho molto caldo, secondo lei devo coltivarla? No, io ho un balcone esposto e un balcone non esposto, per cui la tengo dietro. Quindi deve essere possibile. Poco il sole. Benissimo, allora per me non è il caso. Grazie Gabriella anche per questo suggerimento. Carlo dalla provincia di Fermo, buongiorno. Buongiorno. Io vivendo in campagna, tutto quello che ha detto il vostro ospite è precisamente eccezionale. Io vivendo in campagna, intanto mia madre non fa altro che dirmi, essendo anziana, con esperienza, a dirmi ti faccio pulire due malve? Perché io avevo un periodo con esofagite da reflusso, no? Dovuto avevo l'elicobacter e quello la malva non lo cura, però l'esofagite da reflusso, tutte le infiammazioni, la placa un po', certo, sono perfette. Grazie Carlo, con questo dialetto marchigiano io la adoro. Metto subito l'ultima considerazione di Claudio da Modena, poi concludo con Luca Voledo. Claudio, velocissimo, grazie. Buongiorno, no, volevo dire che da ragazzo il vizio di mangiare le unghie molto spesso si esagerava, allora capitava il famoso giradito che aveva del pus nel dito, e mi ricordo che i miei schiacciavano queste foglie di malva, le avvolgevano intorno al dito con del domo pack, con della pellicola, il giorno dopo non avevo più pus, era scoppiato, esploso tutto e era guarito. Grazie Claudio, questa la sapeva dottora Voledo? Ma che testimonianze meravigliose, una più bella dell'altra, e sembra veramente confermare il detto popolare che dice la malva da ogni male salva. È vero. Bellissimo. Senta, però l'ultima cosa che lei ci deve dire è se la possiamo utilizzare anche in insalata. Assolutamente sì, anche in questo caso le sue proprietà funzionano benissimo. Questa forse non è più la stagione che sta un po' finendo della malva, perché sarebbe bene utilizzare le foglioline tenere e anche i fiori appena sbocciati, quindi non la malva in erboristeria ma quella che viene raccolta come della signora sul balcone. E un ottimo abbinamento è la malva nelle insalate miste, a complemento di lattuga, soncino, rucola, spinaccini, tarassaco se si vogliono prendere delle erbe di campo. Benissimo. Tutte altre erbe ricche di fibre che aiutano l'azione della malva e soddisfano il palato. Vado a fare rifornimento anche per mettermene un po' sugli occhi. Grazie dottora Voledo per essere stato con noi. A presto. Grazie, a presto. Grazie anche a Marco Lombardo, ad Andrea Roccabella. Noi ci ritroviamo domani, anzi a me mi ritrovate fra qualche istante con la borsa. Tra poco.